qualcosa del genere, forse ancora più grave. Se in galleria ma già mai sentito, non c'è problema. Alla prima galleria allora mi senti, perché mi hanno sentito sempre tutti, anche se sei dentro, mi senti. Ma la seconda non è più lunga. Com'è Lugarie? È entrato, là. Sei entrato? Non ricordavo più. Mi ricordavo bene la password, la parola segreta, perché io uso sempre quella, no? Solo che mi dimenticavo di mettere il nome del insomma, ristorante, insomma, queste cose così. Infatti non l'ho impostato, poi me l'ha aperto. Ma non ci sono, non c'è nessuno. Tutti offline sono. Ho capito perché. Non li vedo. Ne avevo tre e basta di nick qua. No, io non sono entrato, ma sono pronto a venire di vedere questa cosa, di vedere questa cosa. Io sto facendo un disegno di come lavora l'impianto di depurazione a biogas che mi serve. Esco e vado a vedere chi c'è. Dove sei arrivato da me? A Luca lo senti? Non lo senti a Domenico l'uno? No. Dice che mi hai sentito giù nella bassa valle. la giusta tecnologia per iniziare, per vedere com'è la situazione. Adesso la rimettiamo un po' più alta come la prima, un po' più alta, intanto devo spostarla perché devo mettere un'altra antenna, quindi ne approfitto e la mettiamo un po' più alta. C'è l'altro palo dentro qui, ne ho sollevato solo, anzi ne ho sollevato due, solo, ce ne altre due a sollevare, e io ne sollevo un'altra, una e mezzo, va. Tanto non c'è bisogno di mettere niente, né tiranti né nulla. Un sacco di soldi, quindi se la vaschetta, il contenitore c'era un tappo per sostituire i carbonativi, me lo fai sapere, io te lo metto in bustine di quelle cookie, capito? Quelle bustine da freezer, te li faccio così e tu ogni 3 mesi, ogni 3-4 mesi te la cambi. Sembra contarne più tre. Vabbè, no, Comunque ci sentiva forte, dai. Mi sono venuti la gente a Mario Mauro, vedrai quando entra come lo senti. Gli ho staccato la capsula sua, gli ho detto guarda ti faccio un regalo, gli ho detto Mario Ma. Gli ho detto ti avevo cambiato la capsula, gli ho detto. Prova la casa tua, quando è entrato a 10 fischiava appena appena, ma a 7, un demonio era. Ma hai sentito, c'era il coso, Gianni è rimasto allibito, dice sai, ma siamo lontani più trecce come pompa. Ma anche io gioco bene, già pompa pure, anche se metà 10 non innesca. Quelle capsule sono ben sensibili, pompano bene, capito? Il discorso è quello. Pompano un bel. La seconda era parecchio però. Nel mio 2009 la verità non c'è neanche, e rimane quasi uguale. Però c'è che apparecchi pompa un bel quella capsula. La seconda l'indifferenza. La seconda sì. Ma è quello che inneschi però quando lo metti, perché lo metto al massimo lui non lo innesca, ma parlo se tu l'hai modificato, e ti vuoi vedere, ti faccio vedere che se va tanto con l'allenato tu non lo fai un lavoro, lo scommetto. Ti innesca perché è troppo sensibile, non per altro. Allora, quando tu attacchi il microfono all'altoparlante del baracchino, perché non c'è posto, è logico che ti innesca. Lo faceva anche a me, se per questo, che c'entra. È come attaccare le doge bippi, che io nel baracchino io sento le doge bippi quando parlo, quando mollo. Si sente, perché si sente, capito? Non è che innesca per colpa delle cose, della capsula, no, innesca solo perché la capsula è un bel sensibile, è pompa parecchio, come impedenza evidentemente è diversa, ed è azzeccata per quel tipo di microfono, capito? Ah, Gaia che su molto. Gaia, basta che lo senti a Mario Mago domani mattina, gli fai mettere il microfono a 7 come l'ha messo oggi, e sembra che ci abbia un coso, un turbo, così avere un microfono. La verità è che doveva fare occhio all'imbito, perché io la modulazione mia lo sai che è schifosa, e io mi ero dato la mia, però se senti a lui, quando lo mette a 7 una cosa, guarda, non credo, io non ho sentito un microfono così come 23 canali. Pensavo che ci ho provato nel mio 2009, la verità non poppa quasi nulla, perché io non so cosa c'ha, è chiuso come apparecchio, nessun microfono esce bene, capito? Invece quello da Benito esce benissimo, per dire. Da Mario Mara altrettanto, e il mio baracchino è così col 2009, non lo so perché. Ora va secondo il microfono anche. Anche tu prendi quel cazzo di microfono, F16 mi pare, F16, F10, poi c'è un buio, poi va da Franco, sai il cazzo l'ho cambiato. Però l'ho trovato una di cazzo. Poi sarà il morto e rimorto, avevo rovinato, praticato, ho staccato la saldatura del più. Allora tu buco la sua microfono, lei ha una capsa di un telefono mi sembra. Quel telefono era la Telecom. Non so, mi ricordo per quale sono andato a parlare alla Telecom, a quanto mi ha detto un amico mio. Dice che procura un po' di roba, mi ha detto di quei microfoni, roba così, mi ha detto nella procura. Anche alimentatori, mi ha detto. Vabbè, noia. Va bene. Casino, ragazzi. I microfoni, antenne, disciplinabile, vecchia. Vabbè, c'è tutti, Sai che secondo, ma sta piovendo, lo fumo è poco fa ho visto. Però se sta piovendo, non l'ho visto. Non ti ho capito. Ma lo so che sta piovendo, l'ho visto. Il problema con lo fumo è che l'antenna è una cosa, una canola a pesca. La metto dentro a casa, orizzontale e parlo lo stesso. Ce l'ho nuovo buio, l'ho sistemata. È perfetta adesso. Aspetta un attimo, buco. Va bene. Ci sei? avanti, avanti, tra. Chi è? Avanti? Vabbè. Oh, Luca. Giulia. Ciao, bello, beh. Come va? Bene, no, ti fa un po' di a Luca. Sì, te lo sento. Tu mi senti a me? Luca. Cacciato, pupo, guarda. Ma mi senti Luca, tu dammi il controllo invece. Aspetta, ma che ti ha buio? No, no, guarda che faccio il temporale maledetto, guarda. Tu non pensavo neanche se mi sentivi tu a me. Aspetta, ascolta, come? Ti ascolto benissimo. Qua c'è un temporale che a metà basta. La ruota di collo. Guarda, ho controllato subito le stazionali e non ne avevo. Ha smesso adesso proprio, guarda. Ho 5 minuti che ha smesso, però il tempo è all'acqua oggi. Come ti sto arrivando? È un passaggio, vai. Aspetta, abbasso il microfono così vedi proprio il segnale. Segnale? Segnale 9, radio 5, a bomba. Ti ascolto benissimo, non c'è problema. E anche a te ti ascolto molto bene, dai. Va benissimo. Devo scaldare bene questa antenna. È vero? Allora, Pompù non lo senti, ma strano. Tu hai l'antenna alto lui. Pompù, prova a chiamarlo. E io lo ascolto, San Caguro. Ma io sto facendo così pollo adesso. Sono dentro la camera, come mi ascolti a me? Cazzo, non vedi ci sono di pollo. Una bomba, di pollo con la canola fresca, che avevo portato a Giuseppe. Dentro in camera sono, ho parlato con Di Polo. Sento anche a Luca, Gianluca di Luca, facciamo uno, perfetto, chiaro chiaro. Io ti ascolto meglio, Pompù. Ti ascolto benissimo, senza problemi. Quando dici voi non ti inviati giù, ma a me non mi importa di più un barcone. Ma quando dico di voi, cosa ci direbbe? Se vuoi te lo faccio con Di Polo, amico, come l'ho fatto io. Prendo una canola fresca e ti faccio Di Polo uguale al mio, poi ci identico. Ma ora non ho bisogno, c'ho l'antenna, allora bisogno di polo faccio. Ma lui non lo senti perché sta facendo col di polo con Pulio, capito? Ah, è per quello, ma ora mi senti, ciao con voi, se mi senti, ma guarda. Ascolta, lui Santiago uno ha detto, ma ti ascolta, dai. Ma con questo l'ho fatto la faccia con Pulio. Ehi, già ho sentito già. C'è la pasta grande, qui, cosa avete, Buona c'hai? Una bella passata di grandine. No, qua ha fatto un bel lampo, cazzo, allucinante. Ma è illuminato la faccia. Peggiavo un balcone io. Ha fatto un flash. Ho visto quel fulmine. Ha fatto una grandina in questo momento. Adesso questo ha trasmesso, adesso adesso. Vabbè, è vabbè, tempo suo. Sta toccando me. A voi a caldo. Adesso fa vento, pioggia e che balla. Se la sta caduto con la Santa Maria, mi giallo. Sparito. Sparito, evidentemente mi ha mancato la luce. Giallo. Oh Luca, scusami, dimmi. E poi dice, la sta caduto a Santa Maria. Sta la caduto, mi metto la vicina. Stai ascoltando? Non va a sentirla. Giallo. Vale. Là stai ascoltando, capisci a me? No, no, no, negativo. Non posso farlo di Luca, tranquillo. Stavo cercando una... Mi dà più cosa, no? Che devo comprare la signora Rosalita. Giallo. Ma la temperatura è bassa, ma non mi dà la cosa sul cazzo. Giallo, là, là, blu, blu, il blu. Tutto staccato, tutto staccato, solo baracchini c'ho la fine e basta. Come ti vai? Mi sono sorbici quelli in fura, un televisore, uno, non mi fa cadere tutto. Adesso guardi, mi ha dato la pelle, ma sono quasi abbruttuto. No, no, non mi ha tirato il televisore, avevo messo il digitale terrestre, non riesco a impostarmi i canali che voglio io, cioè nel senso non... Prima quando era analogico andava bene, mi trovavo bene, adesso mi trovo malissimo con questi canali digitali. Mi sono 50.000, cioè, se sono 50.000, se ne vedono 1.000, è ovvio che non si vede. Si sono i danni? Ma lì come si cali che sono flippitati, capito? Sta cosa così. E poi non mi attira più, davvero, no? Vabbè, poi ce ne vuol di poro. Sai questa capanda una grande, non so che mi scende qualche fulmine in casa, ma lo sai che c'è uno stiro in acciaio. Ecco. Perché sono a rischio su uno? Ma io se per il credito è perché io ma sapevo non ho, cioè non c'ho il coso in corso qua. C'è uno stiro in acciaio della tubo 2001. Ma vabbè, insomma, la porta fa di meno perché in coso, in alluminio, ma comunque già è trovata, se non ti preoccupare. Sì, vabbè, io ho messo piede fuori, sai, per fare il caso fatto che sono andato anche in culo. E dentro casa c'è un il polo, e possiamo anche parlare con i fulmini sopra la testa, non si chiede nulla. Non mi tubi o di polo dentro casa? Nulla, che facciamo ora, se il condotto non sarebbe venuto più a picchiarmi. Non mi sembra per niente. Adesso ha fatto il chiuso, dovrete... Se non è chiesa, adesso vediamo, facciamo le prove. Dove ha gestito i baracchini? Lì sì, no? E se più lì, come ha gestito i baracchini? C'è tutto un mezzo di pensare. Non è freddo lì, poco. Ah? Non è freddo lì. No, non è freddo, perché... Fico, c'è un rifreddo. Poi c'è una cosa, va, fa un po' meglio, va, insomma, così, va. Non lo so perché siamo avuto un minuto di video, ma come è stato, non lo sai, non è che si ha, anche è andato a cena. L'altro fumo è quello che sono in te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, via. Questo si è volontario. Io sono rimasto a casa di fumi come si faceva dentro a casa, non sai. Se pensavo che la finestra avrei cazzato, ma di uno cosa fanno? Ti chiedo con più di fronte. E già lui, allora? Ciao, ti voce, capitato, abbiamo un telefonino. Come si dice? Mi parla, abiti, sai, mi il telefono, sono piccoline e piccoline. E furbo, un diavolo, un furbo, un re, mi si acciappava, mi muoio di bocca, c'è la fiscalla. Ma che c'è la fiscu. L'unica cosa fa trovare le vite, tipo qui, una calamita grande, che la butti in terra, e vorrei che la metti in ghetti. Non si fa così con voi, no, non ho preso la vita in terra. Non riesce a trovarla. Se i mattoni sono bianchi, va bene, ma non sono riferisce già di un altro colore, tipo sul scuro, marroncino scuro. Come fai a trovarla così? Domani la chiappa. La trovo, la scopa, è un piano, se ne apro battito. La calamita ci vuole, perché la calamita la voglio andare via subito. Sì, quello sì. Per quanto riguarda Tessolino, a cavallo cazzo, non so cosa dirti, io normalmente ce l'ho sempre avuto con tutti e due, ho solo detto che... Wow, Israele fa vittore. Poi non capisco qua a me, ma la passiva più piccola sei tu. Ora basta. Sei piccolino? Qualche anno? Ho 40 anni, la Lucia. Ora la parata, ora ci prendo. Ma è lui. Senta sì. Che mi va allora, Gianluca? E lui va a fare dicembre, avanti che è un fischio. Avanti va a dicembre, non è transito. E io, il giorno 16, 36 anni. E io l'ho fatto a giugno. E se mi invece due allora, là, mi muovo, ma se mi invece. Sì, già. Ma tu vedi, non puoi ne spendi. È un po' fuori che fa bisogno, io non intendo che la vedo. Ma quanti anni a radio io? Non ho aumentato in radio, da me, un momento. Fuori, va benissimo, la testa su come testa. Ah, cappa cappa, tu hai spigliato, sì. Aspetta. Vabbè, questo è l'MB più 4. Questo va bene? L'MB più 4 va a Kenwood. Conosci? No, allora sta nel C60? Sì, tu è l'MB più 4 va a Kenwood. Ma quante cazzo posso dire a Kenwood l'MB più 4? Seguite il ZKG. Ok. Cioè, va bene, da 5 watt, tutti tutti. Le 10 sono per esattezza. Quella così, all'alta c'è, ci sono 10 dB di differenza. Non sono pochi, no? Sì, esce meglio di quel bazooka che ci ha buttato sopra, la verità. Ah, se lo vado, lo stacco quel bazooka, ci ho buttato la mondezza. Gianluca, lo senti a compone? Sparito, sparito Gianluca. Con chi vuoi essere compone? E adesso sì. Ah, ci vuole una disturbia. No, se, vabbè, ci vado, ancora non si è lamentata. No, però, non parlo di chi tratta l'essere, c'era l'antenna del coso del televisore che è mezzo imballata, capito? Entra qua dentro, tutti dicono che è vero, io non vedo un accidente. Quindi a un certo punto, quando mi dicono così, io meno male, mi ho fatto vedere male. Però sto facendo di turno nel villaggio. Allora, prendo e mi faccio le cose che mi fate miei adesso. Mi compro una sera di cibo, quella che prendo da bricco, mi faccio un piatto per i fatti miei, a me e mio fratello. Se pugliate si arrangiano. Quando vedo vai sulla televisione dico, allora io perché a casa mia vedo bene e non c'è un problema, quindi non c'ho soldi da spendere. Va bene, quindi bisogna fare allora. Però c'è anche un pareggio. Dato se stavo comprando con i soldi miei l'antenna, non è che stavo comprando con i soldi degli altri. Quindi, invece per loro. A un certo punto mi chiedo una cosa per me, quando loro non vedono si arrangiano e invece per loro non mi interessa proprio niente. Perché dove loro sono vero, il fatto è vero io. Poi se non vedo loro, a me non mi fate proprio nulla. Diciamo che lo studio digitale terrestre un po' coperto il sedere a nome di gente, perché io non ho messo digitale terrestre, non disturbo più. Vabbè, già guarda il televisore vecchio, che quelli vecchi vecchi. Poi avevo fatto una spirale, una serie di cose, poi veniva un avvolgimento con la bacchilite, come si chiama? Bacchilite, bro. E un po' gli ho attenuato, cioè non mi faccio le strisce. Un po' il televisore vecchio parlo, però quando mettevano le cuffie li sentivano. Beh, logico. C'ho anch'io quel sistema lì. Sono disegnato in quei giornali che ho io del vecchi. Come fare il filtro anti TV e per la televisione. Pratico a agganciare un pezzo di cosa, di un tubicino piccolino di bacchelite e poi ci facevo una specie di bobina. E pareva il TV. Ovvero. Ma la Adriano, beh. Lo so, esiste, faccio vedere meglio il disegno, c'è anche come farlo addirittura, c'è anche come fare l'entrata dentro casa addirittura, ma non è quella che ne si usa dal pavimento al soffitto, però devi fare un sacco di casino, come la vai? Poi, allora, telefonini, io metto telefonini, via uno. E via l'altro. No. Spegni tutto. E che si è visto servizio. Allora attendite va. Gianluca! Sì, avanti. Fare bene a Pomponi va. Allora intendo. Ciao Pompo, come va? Ciao Gianluca, Santiago 9, sì. Già va bene qua, tu come va? Tutto a posto? Tutto in ordine, dai. Dai, adesso va bene. Diciamo Santiago non me lo muove, però la radio almeno riesco a arrivare fuori. Sì, c'è la radio di 3, va benissimo, comunque ti sento bene. E tu sei il segnale 9 qua, figurati. Radio 4, col Kenwood, ti ascolto, perché sono stato collato parecchio, la verità. Santiago 1, radio 2. Con questo ti sento perché c'è un amplificatore di antenna. C'ho il 80 e quindi ti sento per quello. Ah, Gianluca, tu i nuovi sei nuovi, anche se i buon pendi di watt. Quanti watt stai andando? Ah, il massimo che la questa radio qua in AM, 25-30. Allora come ha detto Claudio, mi avete come ha detto Luci, dovrebbe essere intorno a quel watt lì. Ma se arrivo io, vai da un poco. 40 watt 4 di quant'anni, vai. Mantengo 5 modulato il tuo, eh. Ma mi sa che vai, vuoi smettere un po' con la Farudu? Sì. Perché c'è regolazione del smitter da dietro, che lo devo vedere quello lì. Lo devo vedere. Aspetta un secondino che provo a mettere a tiro la travaglio. Allora. Prova a schiacciare adesso. Amico, a chi io voglio lo smitter generoso io, perché a Baracchio non arrivi anche con tre, eh. Quando arriva l'ome, figurati. Io sono con 15 watt, tondi tondi. È una quarantina. E più o meno una quarantina. C'è una tuzza. Raga? La tuzza c'è. Non ti compreso, cosa avevo una botta tuzza? No, la tuzza avete lei. Io. Fate le grazie, mi che vale stima delle animali. Ho detto con il tuo perché con la televisione. Con la pena grande sia delle immagini si è toccato, ok. Oh vabbè. E poi come alla siata col dipolo, forse non lo so il digitale, ma sono sicuro che mando la TV in protezione. Perché io mi ricordo, cioè il dipolo vicino alla TV, praticamente vicino alla finestra. E siamo portate pure se stavano nel visore, ma andiamo in protezione. Sto parlando, si è stato attacco, guarda. Lì c'è l'audio, vedi? Attacco normale. E trova l'audio, dentro la camera. Vai, come un patto. Senta, attacco di meno, faccio. Pronto, mi senti? Via. Ok, sono con 3.009 con la tela grande. Così non faccio nulla, nessun problema, televisore. Guarda, lo vedi, sì. Guarda, lo vedi, fatti su positivo. Ok, invece con l'altro arrivo 9.10, 10 di differenza, insomma. Con il pollo. Il pollo? Che avevo di polo, sì, no, all'altra, già va bene. Adesso metto il motore al di polo, dopo domani, e così lo faccio girare. È tutto bene, e ti volgo perfetto io, ma se vuoi una cosa, proprio non andava bene, Santiago no, quasi 9 da di 5. Non ho capito un po', Santiago? Quasi 9 da di 5 lo sentivo al di polo. Ma mi sono fatto male di polo, molte volte mi devo l'antenna. Che non sono fatti. Come sei dotato a casa, figo, se metto soprattutto guai. Attento Gianluca, sei ancora vivo. Ehi, dimmi tutto. Se anche a 1:30 ti sento col 2009, Gianluca, qua. Ti senti lo stesso con questo barattino, sì? È un pochettino basso il radio però. Vabbè, il microfono è quello che è, non è come quello del tubolo. Se sembra il dubbio. Comunque già ti sento bene, la verità si ricchia. Ma le voci di voi, Cavarocci. Claudio, Luigi. Mi hanno attaccato tutti i piedi stasera. Oh, ma io ho prima impianto, Cioè, 3 kg quasi non basta, lui. Ah beh, io lo credo già. Se hai visto qualcuno si può dare anche l'appartamento solo l'altro. Tutti le cose, tutti così partono. Il fumo camminami, non è che ci passa, cioè anche se c'è un coso, ci passa tutto, ci passa. Ma si conferma. Va bene, lasciamo fare, sono papeggio. Oh guaia, fa qua. Non c'è lui, mi sta guardando, Claudio. Tu lascia la pappa, non già farai. Eh? Non farà la baracchina anche tu. Non farà la baracchina. Tranquillo. Non è che faccio parlare con Scooby, per quello io. Scooby, ma che tu lo dici, la vuoi l'acqua Scooby? Lui ha detto le orecchie, piglia e ti abbaglia. Vuol dire sì che la voglio. Ma tranquillo, ci prima di luna, te ti bicicli, quante volte non duri quasi. Un po' di meno, però lo fa. Ti manda, ti abbaglia e ti. Capito? Una fa tipo il tuo. Ma il tuo è più aggressivo. Ma ce l'abbiamo un po' meno. Scusi una cosa, una cosa bella, anche guarda, però anch'io mi a volte. E quando si infila sotto al letto, se gli si entra di colpo, ti ringhiami e ti perseguita fino a fuori. A me, guarda, sai cosa ha fatto un giorno? Io l'ho letto, mi sentivo male. Come è arrivato alla porta, ha preso, si è fatto dal letto, finché è arrivato fino alla porta, la ringhiava, gli mostrava che cosa la dentiera a me, a bagno di questa la dentiera, non per dire, senti qui sei morta. Ah, questi qua c'erano i quasi con me, ma stavo là, c'erano con me. Adesso un'altra volta gli hanno messo da mangiare, c'era Carletto, Carletto lo conosce, no? Perché mi ha molto spesso. Gli ho messo da mangiare, stavano a prendere, io, beh, mi ha sai che l'ha ringhiato. Gli ho messo la mano io e mi ringhia la mano a me. L'ha messo con un padrone, ma comunque. Non mi importa, pure a Carletto lo vedo ogni giorno, cioè ogni giorno, lo vedo molto spesso, eh. Vabbè, ma sono che cane, si fanno il territorio, capito? Quella zona è loro e basta. E scusi, è fatto così, se mi è fatto poco, si mette a fare gli occhi grandi per dire scherzando, oppure gesticolare, guardi, fatta in quarta, non c'è niente da fare. Cosa è vero, sì, solo sì. Se li tocchi, ma a me la verità non mi fa nulla, no? Quindi capita molte volte, gli ributta un pezzo di pane, la mollita, me la butto, lì la prende, quando la gatti con l'ammi, allora fa una gara, se ne scappa, si incazza. Però se ci vado avanti, che rimane ferma, dico dammi, metto la vicino alla bocca, io non ringa più. Però se vado con forza, si incazza. Ma musicale non mi musica, io la faccio mia e gli dirò un po' le palle, mi compo. Eppure non mi musica, non mi musica. Non mi musica, ma anche dopo li faccio male, allora sì. Perché una volta, quando è? Che fanno? Gli ho fatto i vaccini, no? Allora tipo mi ha detto che il vaccino gli porta male, gli porta la causa un po' di febbre. Vabbè, ok. La prende in braccio, come la prende in braccio, no? Che prende per le zampe, sotto, proprio sotto, lì si è lamentata, forse male la punta, non so, gli ha fatto male alle zampe, non so, poi l'ho presa, mi ha musicato un po', lo sai, sono proprio così, la prende in braccio, l'ha musicato, l'ha fatto un buco di tuburo. Che tu dicevi che il veterinario, quando l'ha fatto la teme, prima gli mette la museruola e poi i cecchini la ferma, ma che sono dei cecchini a me. Scusa, è fatto così, me. È una cosa da non credere. Solo che da Giampiero, cioè poi l'altro non si fila a me. Cioè poi non siamo vedendo nelle parti le balle. Si dopo mette le gambe sue. Ah, ma lui c'è bravo, là, non anzi, per quello. Quindi se la tocca a mamma, tipo di buttare un pezzo di pane così, dici dammi, gli ringhia a mamma, non vuole. Quando la tocca, secondo che colpo di tira, no, stai dietro, lui gli ringhia, a me non mi fa niente, e gli rompo le balle lì, e poi a me mi fa il danno, non è guai, Se non va si buca, lo sa già, Edda, perciò a me non me deve fare le stesse cose. Certo, se gli rompo le balle, gli faccio male, va bene, sono d'accordo con lei. Oh no, scusi, in verso. Fatto così e non ci posso fare nulla. Ma con qualcosa, con il battolo l'ha detto, non ti preoccupare. È fatto così. Solo che c'è una cosa di bello. Che quando viene a me impazzisce col cane. Sale con me, scende con me, mi lascia solo. E poi se tiene qualcuno a dire qualche cosa si avventa subito. È bello per quello. Poi, non lo so, c'ha quel muso strano e simpatico, non lo so. È bello come cane. Solo che ha fatto così, cos'è il bosso vaio? Meglio, è meglio con voi. Meglio. So che non lo deve fare con voi, ecco come usare. Se lo fa anche con voi non sono d'accordo. Sì, ma ci ha rimesso il labbro un giorno. Mamma ci ha rimesso una mano. Quindi figurati, si gira tutti, secondo come lo trovi, perché giusto è stato, è con mamma, si dice sempre cosa, perché il cane pisce in terra, eccetera, eccetera, quando vai a me poi è puntiglioso. Se io esco per dire da qua, cioè, se parli tu mi pisci dentro la parte di Miami, oppure la parte di Simone, il discorso è così, è fatto il pincer così. È meglio, cioè una persona che non conosci non deve fare così. Ma io mi ricordo, non sono venuto a casa tua là, se sei vecchio, ti ricordi? Cioè, avevo il cane, però non era così cattivo, forse perché era più piccolo. Lì ieri. No, lì, in corso Vittorio Emanuele ieri. Io ero anche le caramelle, però non era così aggressivo. Purtroppo è così. Se Michele abbia detto Benito già l'ha visto il cane, mi sembra venuto quando c'era il cane, Benito. Ce l'ho chiuso in camera da Simona, se no guai. Sono metti rinusimi, sono minoreti, ma allucinante va. Ma anche la mia è così, Ripeto, un po' meno la tua, ma del tuo, ma anche il mio, la mia già è una maledetta. Tu non so la porta a vedere, usa, io ti apro, lei ti faccio vedere cosa fa. Proprio il fatto che è fatto in picchiata, si mette a bagliare, mi sta anche ascoltandomi. Ma su quale gli manca la parola da buon po', gli manca la parola, va, credimi. E se va a Scooby, a parte la ritira, ma la, si fa subito capire Scooby. Io una volta che sono giù in casa di mamma, è sempre vicino a me, vuole che lo porta a passeggio, vuole che la porto su, giù, ci vuole rimanere, Marco Botto ci rimane giù. Solo che deve rimanere giù. Se io esco, adesso, per dire sono andato mezzo da fare a casa di mamma, adesso sono stato appisciato in camera del fratello. Esatto, che posso uscire mentre l'auto alla luna mi è potuto la pisciare fuori, neanche il piscia, qui è tra l'altro il piscia dentro, se lo fa apposta, perché vuole salire con me. Vabbè, meglio che sia così, la cane da guardia. Allora, se io voglio toccare qua, lo faccio dormire fuori, non c'è la porta, anche lì, più o meno, l'altro da lì. Io ti faccio vedere che lascio la morte e non me la tocca nessuno, perché è un allarme. In qualsiasi rumore, proprio, si va a mangiare. Perciò se io lascio la moto fuori non me la tocca nessuno. Ciucucciu. Giannu, a Bisese, Natti. Un attimino Luca, che stavo facendo quello con salvatura qua. Saldando stai, salda. Chissà che neve che stanno a pegare, è ora. Ciucucciu.